Dallas. Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 Mattino" di Alessandro Milan. Tu che stai facendo, fratello? Niente, ammazzo il tempo. Non accettiamo l'attacco diffamatorio che stiamo subendo dal Partito Democratico, che nasce proprio dopo, e noi non ci crediamo ai sondaggi, ma a quanto so per loro sono la Bibbia, proprio nei giorni successivi a quando, secondo il sondaggio Piepoli, il sottoscritto aveva superato Matteo Renzi nei sondaggi e il Partito Democratico stava per essere sorpassato dal Movimento 5 Stelle. Valanga che vi stanno buttando contro, gli si ritorcerà contro, e abbiamo dimostrato che proprio in questi giorni, tra l'europarlamentare Caputo e diversi sindaci, ormai viaggiano al ritmo di un arresto e o un'inchiesta al giorno, quindi non hanno neanche credibilità. Questo attacco diffamatorio verso il Movimento 5 Stelle noi lo respingiamo al mittente, perché sappiamo che i cittadini sono con noi. Niente, la notizia politica di questi giorni è la vicenda di Quarto. Mamma mia, non se ne può più obiettivamente, ma questo è... Sono le 6:30 minuti, cari ascoltatori, ed è venerdì, Peter Pescapè, è venerdì, Lorenzo Nespoli, è venerdì, si chiude la 141esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Ahi noi, anche questa settimana è andata così, con nulla di fatto. Vabbè, dai, schema Allegri rispolverato per la 142esima settimana, che potrebbe regalare soddisfazioni, chi lo sa, noi attendiamo fiduciosi. Ho capito, ma Silvio Berlusconi, altro che attaccare, vuole lasciare la politica. Questa è la notizia di Repubblica. Vuole, con Falonieri, suo amico gli ha detto: lascia la politica, basta, che ti serve Forza Italia al 10%, lascia la politica. E lui, di recente, che ha fatto questa conferenza stampa il giorno di Milan Carpi, ha detto due cose pregnanti sulla politica e su Berlusconi: vorrei essere alle isole Bermuda in questo momento. E poi ha detto: facciamo in fretta, dai, che c'è il Milan. C'era Milan Carpi, dai, facciamo in fretta. Questo è l'attaccamento dimostrato negli ultimi due giorni di Berlusconi alla politica. Ha però forse il nome per Roma. Lo svelo tra poco, anzi, lo voglio svelare ai due ospiti che Roma la conoscono. Intanto torna con noi Vladimir Luxuria. Vladimir è una persona molto sensibile, eccola lì. Ha un sentire, come dire, delicato, è un vero guerriero della libertà e della democrazia nel suo paese. Oh, Vladimir, buongiorno, Vladimir Luxuria. Buongiorno, c'è Candida Vladimir Putin? No, se no tu dovevi andare, non lo so, a emigrare in esilio, no, neanche fuochino, proprio acquazzone temporale, Vladimir Luxuria. Bruno Vespa, l'altra volta, no, c'è un altro nome, fuochino. Bruno Vespa, no, non è fuochino con questo nome, però fammi salutare intanto anche Carlo Rienzi, presidente del Codacons. Eccoci qua, avvocato. Buongiorno. Avvocato. Sapete chi candida a Roma, allora, Silvio Berlusconi, lo dice Repubblica, Chi candida? Guido Vladimir Guido Guido Vespa. Guido Bertolaso. Bertolaso. Ah, te lo ricordo. Delle sciagure. No, ma no, dai, perché sì, cioè, nel senso quello che risolveva, cioè, certo, no, sì, affrontava le sciagure. Ah, bene, wow, questa notizia. Che quindi si occupava dei circoli sportivi. Sì, vabbè, adesso. Quindi se arriva un terremoto, un nubifragio, una nevicata, ecco lì. Se fosse... anche per lo smog eventualmente. Non lo so. Beh, sì, Guido Bertolaso era capo della Protezione Civile, pronto a tutto, no? C'era un periodo in cui faceva gestiva 26 emergenze contemporaneamente. Però insomma, è una voce che c'è su Repubblica, non è detto che sia il nome vero, però ha detto che aveva questi due nomi, uno su Roma, uno su Milano. Pare che Bertolaso possa essere quello su Roma. Non lo so, vi vedo, vedo già due potenziali elettori di Bertolaso. Un po' è come se uno annuncia fuochi d'artificio, però effettivamente, data la tragedia in cui si trova la città, quasi quasi uno che si occupa di emergenze, di inondazioni, terremoti, si è occupato per tanto tempo, potrebbe anche andare bene, perché insomma a Roma non c'è niente che vada bene in questo momento. Vedi che un elettore l'abbiamo già poco poco conquistato, e sono passati due minuti dalla candidatura. Quindi adesso io però non vorrei dire, dopo il commissario Tronca, con insomma una faccia non proprio allegra, promettere ai romani uno che si occupa di sciagure, secondo me qualche gesto apotropaico i romani lo stanno facendo. Ma lui andava pure a giocare nei centri sportivi, però anche un aspetto ludico. Sta cosa dei centri sportivi, mamma mia. Allora dai, apriamo il Parlamento, che è venerdì, avete capito, siamo con Carlo Rienzi, presidente del Codacons, e Vladimir Luxuria, che come sempre poi alle 9 sarà su Radio Capital con il geco e la farfalla. Allora, vabbè, a parte c'è l'altra notizia politica del giorno, dai, smarchiamocela subito, perché qua Vladimir Luxuria devo capire cosa ne pensa sulla questione delle unioni civili, cioè so cosa ne pensi dal punto di vista della legge, però c'è questa polemica perché sul sito gay.it hanno pubblicato quella che per alcuni è una lista di proscrizione. Insomma, questi senatori cattolici che non vogliono la stepchild adoption, le adozioni, e sono stati messi con tanto di fotina, foto segnaletica, contattateli, la mail. E che siamo arrivati a questo, Vladimir? Ma va bene. Allora, intanto ci sarà il voto segreto, come sapete, sulla questione del DDL Cirinna. Sarebbe interessante sapere, no? Come la pensano i vari senatori che dovrebbero rappresentarci. Sì. Quindi sinceramente io tutto questo scandalo, cioè non è che hanno detto andatevi a picchiare, cercate di capire per quale motivo. Ho capito, ma scrivetegli, chiedetegli un incontro, ma cioè che cosa ne pensano questi senatori? Non è che lo nascondano, no? Lo dicono chiaramente che sono contro. Alcuni lo avevano dichiarato apertamente, già sapevamo, altri invece avevano una posizione un po' ambigua, non si sapeva, tant'è che quando è stata fatta poi questa lista già qualcuno poi ha specificato che no, noi voteremo. Cioè c'è sempre un po' questa cosa per cui già c'è la libertà di coscienza, no? Non c'è il voto di fiducia, non c'è la stessa determinazione del Job Ex, adesso per dirne una. Seconda, c'è anche il voto segreto. Insomma, e quindi bene sapere. Dobbiamo temere Sgambetti, dobbiamo temere... insomma, ma ho capito, ma cioè Sgambetti, poi i senatori votano come vogliono, non esatto, è che... cioè se io avessi fatto una lista dei senatori che erano contrari alla legge sul Job Act, cercando di... cioè io non vedo qual è la... Non vedi la cosa, non so, vediamo se l'avvocato Rienzi può dirci se c'è una violazione della privacy, non lo so, qualcosa. Ma no, il codice se lo fa sempre, spesso figurarsi. Per esempio quando c'è la legge che ha aiutato le banche, la legge che approva l'aumento della benzina, una legge che adesso è sul bail-in per le banche, il crack, eccetera. È giusto che chi vota a favore di una legge che il cittadino, per esempio, ritiene ingiusta, sia indicato, perché poi ci saranno altre elezioni. Indicato. E quella indicato nel senso che se tu stai in quel collegio dove quello sarà eletto, è stato eletto, si presenterà, tu quando è il momento dell'elezione ti ricordi, cioè, questo mi ha dato una fregatura. D'accordo, ma voglio dire, ma indicato, cioè, a parte le elezioni in cui si vota in maniera segreta. L'elenco dei nomi. Ma a parte le elezioni in cui si vota in maniera segreta, le altre sono elezioni in chiaro. Quindi se uno vuol sapere cosa vota un senatore o un deputato, sì, lo ma sa. Ma non c'è tempo da perdere, andare a cercare sul sito, eccetera. Ah, fate un favore alla comunità. Rappresenta la categoria e gli porta... Guardate, per comodità, questi sono quelli che sono contro questo grande diritto vostro che avete, che è stato strappato, eccetera, eccetera, in modo che alle prossime elezioni non li votate, votate un altro. Senti qual qua, Vladimir, senti... No, ma poi non ha dato l'indirizzo di casa, ha dato l'indirizzo email, credo sia quello di... Sarà quello del Senato. Qualcuno che ha dei dubbi può chiedere. Sì, a cui non risponde mai nessuno. Scrivete a uno sulla mail del Senato. Senti qua, Vladimir, cosa scrive Alessandro Sallusti in Prima del Giornale. I gay da perseguitati a persecutori. Sì, certo. Da vittime dell'indice a puntatori di indice. Da discriminati a discriminatori. Vabbè. Che devo dire a Sallusti? No, non lo so cosa devi dire a Sallusti. Dimmi quello che vuoi. Però... Ma io dico, ma uno che di semplicemente vuol far sapere come la pensano i senatori, vuol mettere in chiaro, già non si votano direttamente, no? Vuol sapere come la pensano su certe questioni, io non ho la lista di proscrizione, allora, no, deve temere di poter esprimere la propria opinione o di chiarire quale sarà l'intenzione di voto. Sull'espressione lista di proscrizione anch'io sono d'accordo, è un'esagerazione, sono state ben altre liste di proscrizione, sono state quindi nel momento in cui questi senatori sono visti con tutte le fotine su questo sito, hanno detto ci puntano contro, dicono non si può essere liberi di dire... Si sono visti un po', come dire, identificati come il male assoluto nei confronti di questa legge. No, non è vero, è una maggiore conoscenza. Adesso noi, per esempio, pubblichiamo un elenco delle aziende che producono in agricoltura rispettando certi criteri di non sfruttamento col capolarato però uno può dire ma chi vi dà la patente di essere a dire questi sono bravi e questi non sono bravi, per esempio, quella è una procedura prevista dalla legge, cioè tu puoi chiedere un bollino etico se non sfrutti e se dimostri che paghi le persone di tutto, quindi c'hai un tuo bollino, un tuo accertamento, lo puoi dire, questi comprate la frutta che porta questo marchio, perché no? Allora gli altri potrebbero dire, e noi che siamo? Vabbè, questa è una cosa però in positivo, se vuoi, e se vuoi è una cosa in positivo. Ma lo stesso in negativo, cioè tu hai la categoria di chi vuole le unioni civili, dici in positivo, cioè ecco quelli che votano a favore delle unioni civili, ma per dire quello si può anche dire ecco quelli che votano contro, non capisco, cioè la informazione corretta e completa. Sì, ieri per esempio Sala ci ha rifiutato di dirci, è uscito pure sui giornali, che fine hanno fatto i soldi raccolti per il Nepal. Ecco, ha raccolto un sacco di soldi. Noi che facciamo sempre questo, tutte le raccolte pubbliche, gli italiani sono molto generosi, però non sanno mai che fine fanno i loro soldi. No? Sì. Abbiamo fatto una richiesta, come lo facevamo per la Sardegna, cioè per piacere pubblica quanti soldi hai preso, cosa ci stai facendo, eccetera. Ha risposto no, non lo potete sapere. Ma è una cosa ammissibile questa. Intanto poi i senatori che si scandalizzano perché viene messa la loro foto, ma perché è un segreto di Stato la loro foto? No, non sono privati cittadini, sono senatori della Repubblica Italiana. Poi uno si potrebbe... Perché uno si deve vergognare? Non è mica un crimine votare contro o a favore. Anzi, ti prendono i voti dei leghisti, per esempio. Capito, no, però io voglio da voi un pronostico. Voglio un pronostico. Dai, Vladimir, ci sarà questa legge oppure no? Perché qua non se ne può più, sono 30 anni che se ne parla. Ieri. Basta. Cioè, io l'ho detto, guarda, come provocazione: o la fate, o se non la fate, non se ne deve parlare mai più. Mai più. Perché non se ne può più, insomma, ogni... No? Ti ricordi Rosi Bindi, Idico? Figurati, lì non c'era manco figura, non si accennava né alla child adoption, né alla pensione di reversibilità, e fecero le stesse barricate di allora. Esatto, figurati. Vabbè, passerà o no sta legge? Guarda, mentre prima ero più ottimista e poi sono rimasta delusa, questa volta voglio partire da pessimista essere... quindi, e invece essere sorpresa da effetti speciali. Oh, ecco, Rienzi passerà? Pronosticone, ma, di Rienzi. Secondo me no, perché ci saranno delle emergenze più importanti, dei problemi più gravi che non daranno la possibilità di dedicarsi a questo tema, che pure è molto importante. Però insomma, vedete, vi accorgete di quello che sta succedendo. Ogni mattina ci svegliamo con un assalto in un paese straniero, un rapimento di 100 persone, insomma è una situazione molto molto grave. Molto grave, ho capito, però non poi è che... c'è anche l'incognita Movimento 5 Stelle, non vorrei che qualcuno ne approfittasse col voto segreto per usare questo per fare degli sgambetti, insomma sono tante le... Sì, tra l'altro, sì, ci sono anche, c'è da dire, queste minacce internazionali. Nel frattempo, le cose più gravi a cui fa riferimento Rienzi. Non so se avete visto questo video, avete letto di questo video dalla Libia in cui ci attaccano. Avete occupato la Libia col generale Graziani e per questo pagherete. Insomma, molto aggiornati, dire. Questi noi faremo rispondono... una campagna contro la Francia per Napoleone che c'è in Francia, veramente. Il nonno, no? Il nonno. Si ride per non piangere, ovviamente non è che la cosa vada sottovalutata, è grave, molto grave, ma mi ha fatto un po' sorridere. Si può sorridere di tutto, anche di questo. Avete occupato la Libia e risponderete voi, nipoti del generale Graziani. Va bene, dobbiamo pagare per il generale Graziani, che dobbiamo fare, c'è anche questo da fare. Però c'è un'altra polemica sulla quale vorrei un parere da Vladimir Luxuria e da Carlo Rienzi, portavoce del Codacons e presidente. L'avete vista questa, la battaglia di Civati? Vladimir, l'hai sentita questa di Civati sull'età, sull'IVA, sugli assorbenti? L'IVA sugli assorbenti, che deve scendere dal 22 al 4% secondo Civati. Sentilo qui, credo che fosse da Mirta Merlino, È vero che lei vuole fare la tampon tax? Che cos'è la tampon tax? Stavo per chiedere. La tampon tax è una cosa molto mi dispiace che sia accompagnata sempre dai risolini. Eccola lì, eccola lì. Abbiamo riso anche noi, la tampon tax, cioè abbassare l'IVA sull'acquisto di assorbenti e insomma tutti quei prodotti che servono alle donne più o meno una volta al mese. Beh, perché si dovrebbero considerare dei prodotti di tipo sanitario. Quindi è giusto, vedi che è come con Bertolaso, sta già conquistando una siamo sempre a favore del consumatore, dell'accesso più agevole a quello che serve per migliorare la salute e la vivibilità. Viva la tampon tax. Cioè, per mandare via Tronca, che la vivibilità a Roma non ce la dà. Eccola là. Viva la tampon tax. La tampon tax potrebbe essere un capito. Vladimir, che dice? Ma se fosse vero, sarebbe una buona notizia per tutte le donne. Vabbè. Le donne fino a una certa età. Fino a una certa età. Va bene, andiamo al traffico, che poi rientriamo. A Milano, mi vedo sentire il traffico. Dai, sci, dai una botta. Ciao Alessandro, io ti volevo dire riguardo del 2% sui partiti, io darei il 2% di arsenico a tutti quei dei partiti. Ciao! Omina, e sono fiorentino. Tempo fa tenevi tutto il conto delle settimane per la riforma elettorale, ora per le province. Ma mi spieghi un po' per piacere, comincia a contare quelle settimane di Fermarò che in India e quegli stupidi delinquenti non ce lo rimandano a casa, invece di guardare sempre per l'imbecille di Crozza, Ciao! Milan, avanti leggici i giornali, raccontaci di tutti i mali, il traffico che c'è. Vabbè, come al solito si sono aperte le porte e tutti liberi, cara Vladimir Luxuria. Poi dopo rientrano a casa, sereni, tranquilli. C'è qualcuno che li accoglie, sono certo di questo. E sono i nostri ascoltatori, il nostro grande pubblico. Ecco, visto che Renzi l'ha citato, Tronca, ma dai, ditemi una cosa che da cittadini di Roma, che si vede da quando c'è Tronca? Per esempio, Vladimir, ci eravamo lasciati col Capodanno. Io poi sono andato all'estero, ma c'è stato il Capodanno. Poi non è stato così cattivo, Tronca, dai. Anzi, bisogna dire Tronca, un po' più perentorio. No, diciamo che qualcuno gli ha fatto cambiare idea, probabilmente. Insomma, meno male, dai, è passata l'idea che Capodanno si festeggiasse dopo il brodino riscaldato, con rosolio, il rosolio a mezzanotte e 5 tutti a letto, invece no, dai, quest'anno è andata bene, mi ha concesso di, ma se si vede in qualcosa, tu esci, vai, giri per il Pigneto, dici, guarda, vedi, si vede che c'è Tronca adesso, sì, ci vede che c'è. Diciamo le linee sono tronche, soprattutto quelle della metropolitana. Vabbè, ma adesso cosa deve fare il prefetto? Ma è divertentissimo oggi prendere la metropolitana a Roma, perché non c'è quella banalità di sapere che prendi la metro a quell'ora, che arrivi, cioè è un gioco dell'oca, ritorni indietro, si chiudono le fermate, non circolano più, quindi è più divertente, capito? Sì, sì, sì. È più divertente, non so, Renzi, si vede l'impronta di Tronca? Non si vede niente. Niente, Troncato le gambe, ormai proprio. Miseria. Dalla spazzatura al traffico, alle foglie. Io tutti i giorni rischio di cadere sulle foglie marce che sono in tutta la città. Mannaggia, neanche il guano. Meno male che prima c'erano i mafiosi che raccoglievano. Già ti va bene, perché c'è pure chi scivola su un altro materiale, diciamo, lasciato da piccioni che dimostrano di aver mangiato, ecco. Quello però, guarda, quella è responsabilità dei padroni dei cani. Sì, sì, no, sì. No, io sì, dico sì, piccioni. Ah, i piccioni, piccioni. I padroni, guarda, dei piccioni, anche quelli. Guarda. I padroni dei piccioni dovrebbero pulire un po' di... No, quelli, i padroni dei piccioni. Dovrebbero no. Mettere le griglie quando anni fa si mettevano a via delle milizie, poi li hanno mandati via. Insomma, educateli questi piccioni, cari padroni. Dunque, noi oppure uno spaventapasseri con le sembianze di Tronca. Di Tronca potrebbe essere. Lo spaventapasseri. Oh, ma no, devo tornare un attimo perché vedo questa notizia sulla stampa sulla questione delle unioni civili. Ma sapete, Vladimir, ma lo sai che la Francesca Pascale che è venuta a trovarti, poi è lei che ti ha portato a Berlusconi, no? Sì. È grazie a lei che pare che si sia incazzata tantissimo con Silvio, perché Berlusconi ha detto voteremo no alle unioni civili. La stampa pare che l'abbia apostrofato con queste parole. Silvio, ti fai mettere la museriola da quei bigotti del tuo partito? Tu saresti un vero liberale? Ipocrita, fammi il piacere. E poi forse ha sbattuto la porta. Bam! Non si erano lasciati. No. No. Guarda, non ho difficoltà a credere che sia vero. Io mi sono sentita ovviamente con la Pascale. Sì, ho chiesto a Comesso dietro front. E che ti ha detto? Lei mi ha detto che... Dacci uno scoop. Hanno presentato il loro disegno di legge, un altro disegno di legge, e comunque lei il 23 sarà presente sai che ci saranno tutte le associazioni, che lei sarà presente. Sarà presente dove? In Parlamento? In una piazza. Il 23 Francesca Pascale protesterà in una piazza. Ha un ruolo, cioè lei che cos'è? Cosa? Fidanzata in quanto di Berlusconi? Comunque se ne parliamo vuol dire che bene o male quello che pensa può essere... Ma certo, è la fidanzata ufficiale di Berlusconi. Sembra un po' ironico che ne parliamo, però. Guarda, è sui giornali, è sulla stampa, sotto l'articolo sulle unioni civili, e Francesca Pascale striglia Berlusconi, ipocrita. Ma è serio, non è. Ma no, ho capito, però c'è... ridersi con la Pascale. Però è interessante questa cosa, effettivamente. Berlusconi ha fatto un po' dietro fronte su questo. Infatti la Brambilla, anche un'altra che dice io voterò a favore. E anche la Bernini, credo. Ma guarda, ma che volete dire? Che fanno quello che gli dicono le donne, se no non gliela danno? Ma non ho capito, questa è un'altra ironia assurda. No, che cavolo di ragionamento? No, è per dire che nel centrodestra c'è un dibattito su questo. No, voi volete dire quello che ho detto io. No, sì, avvocato, mi difenda, non mi attacchi. Lei è l'avvocato difensore mio, mica l'avvocato di parte civile che mi deve spolpare. Comunque, alla fine, Renzi e Berlusconi non è che siano così distanti, non voglio dire pilateschi, però Renzi dice io sono a favore libertà di coscienza, però Berlusconi dice noi diciamo no, però lasciamo libertà di coscienza, per cui poi però intervengono le loro donne. No, che niente vogliamo dire, che c'è un dibattito. Comunque, livello basso. Sentite qui, a proposito di livello basso, Gasparri che cosa ha combinato in commissione vigilanza Rai? Si parlava della Rai, le polemiche, il capodanno, eccetera. Marco Masini che cantava su Rai 1 e quindi lui ha fatto ascoltare una delle canzoni più celebri di Marco Masini, tutto in commissione. L'altra questione, non posso evitare il fatto di attualità recente, si è parlato molto della bestemmia e molto dell'orario, a me mi ha fatto più arrabbiare, è una canzone carina che uno può anche sentire, la conosciamo, c'ha 20 anni, ma che una mezzanotte e 20 il saluto della Rai sia stato vaffanculo con Masini che la cantava e lo manda sull'iPad che cantava e lo manda sull'iPad lui, Gasparri, sul ho capito. Ma se la manda la Rai in casa mia la posso mandare anche io qua, è un altro siamo discorso. Tutti maggiorenni, scusa. Vabbè. Con il buon Gasparri che in commissione vigilanza Rai manda aziona l'iPad e via, e parte Marco Masini. Che dobbiamo fare? Ti ricordi Alberto Sordi quando cantò? Mi sembra proprio a Sanremo. Sì. Se ci hanno mannato a quel paese, fu un po' più diciamo un eufemismo, però insomma, alla fine la destinazione è sempre quella. Sempre quella, la destinazione è sempre quella. Allora, caro Carlo Rienzi, presidente del Codacons, la prossima battaglia del Codacons qual è? Velocissimo. Proprio quella. La mega azione per 3 milioni di dipendenti pubblici per essere risarciti del blocco del contratto collettivo dal 2008 al 2015. Paga pantalone. È già in paga pantalone. Perché la Corte Costituzionale ha detto che è illegittimo il blocco e devono anche rifare il contratto. E la tua, Vladimir? Qual è? La detassazione di tutte le creme depilatorie. Oh, insieme a Civati potresti metterti insieme. Fate la detassazione delle creme depilatorie. Allora sul tampone pure appunto. Dal tampone alle creme depilatorie. Va bene, alle 9 sono sicuro che ne parlerai a Radio Capital con Gico la Farfalla. Certamente sarà il tema principe. Vi devo salutare, vi ringrazio, alla prossima. Ascolto Radio 24 la mattina e sento Milan, Alino Milan. Ma fa venire l'ulata lì chi chiude sto cazzo di Alino Milan. 1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Ci siamo, sono le 7:18 minuti ed è venerdì, pensate un po', cari ascoltatori, 141 le settimane decisive, sia ben chiaro che si chiudono oggi, 142esima all'orizzonte e chissà che non sia quella buona. Allora noi parleremo un po' di attualità internazionale, le minacce anche all'Italia che provengono da Al-Qaeda, così definita, in un video diffuso in Libia, ma poi quello che è successo a Giacarta, l'ISIS che è in mezzo a noi, ieri titolava così il Secolo XIX, oggi riprende questa notizia al giornale, cioè due dell'ISIS che sarebbero o passati o starebbero in Liguria. E insomma, le inquietudini ci accompagnano un po'. Ne parleremo più avanti, ora però andiamo a scrutare quello che raccontano i giornali. Questo venerdì 15 gennaio i titoli, il Sole 24 Ore come molti giornali apre su Renault crolla in borsa, emissioni nel mirino e anche però Fiat Chrysler perché è un concessionario americano denuncia immatricolazioni false, fa cadere così il titolo di FCA in borsa, perde l'8%. L'effetto auto scuote le borse, anche il titolo di apertura del Corriere della Sera, mentre per il Messaggero scandalo auto, tonfo in borsa. La stampa invece è sull'Europa. Berlino vuole una mini Schengen. La Germania propone chiudere le frontiere attorno a un nucleo di 6 paesi fuori l'Italia. Le unioni civili invece per Repubblica. PD scontro finale sulle unioni civili. Bufera sul sito gay.it che pubblica nomi e foto dei senatori anti-adozione. Adottiamo le unioni è il titolo dell'Unità. E il manifesto invece In Family Day, la crociata contro la stepchild adoption incendia il clima in vista del dibattito parlamentare. L'apertura invece del Fatto Quotidiano è una notizia che vedremo tra poco. Expo 2015 è finita da 76 giorni, ma Rai Expo continua a spendere. Questa è una cosa davvero singolare, come dire. Libero invece ha un documento esclusivo ed è questo. Giacomo Amadori in prima pagina. Un'associazione segreta dietro Etruria e papà Boschi. Flavio Carboni della P3, il misterioso imprenditore Mureddu e Ferramonti fornivano al vicepresidente Boschi aiuti e perfino i nomi dei dirigenti da assumere. Queste alcune aperture, attacchi e minacce invece per quel che riguarda la situazione internazionale è l'apertura di Avvenire. Kamikaze a Giacarta, Ankara colpisce il Daesh, Al-Qaeda contro l'Italia per il suo ruolo in Libia. Allora, però, da che cosa iniziamo? Beh, appunto, questa notizia mi ha molto colpito. Pagina 2 del Fatto Quotidiano, Carlo Tecce, 11,8 milioni non bastano, l'Expo è finita, ma la Rai spreca ancora un po'. E nessuno si è accorto, racconta il Fatto, che Viale Mazzini ha allestito una struttura editoriale per celebrare l'Expo 2015 di Roma, di Milano, con un nome di scarsa fantasia, Rai Expo. Nessuno si è accorto che Viale Mazzini ha speso 11,8 milioni versati dalla società Expo, cioè lo Stato con le risorse pubbliche, per la Fiera del Cibo e almeno un paio li dovrà aggiungere la stessa Rai, cioè lo Stato con il denaro degli abbonati. Ma l'ultima disattenzione è ancora più macroscopica. Nessuno si è accorto che la redazione di Rai Expo di Roma non ha serrato le tapparelle. È aperta. Non fa nulla. O meglio, costa. E l'Expo è finita 3 mesi fa. Forse, se va bene, soltanto a febbraio Rai Expo sarà dismessa. Questo è il succo della notizia. Ovviamente nella nuova Rai di Campo Dall'Orto si racconta di un Campo Dall'Orto, un direttore generale, o meglio amministratore delegato, molto molto arrabbiato. Comunque 11,8 milioni non bastano, l'Expo è finita, ma Rai Expo no, rimane ancora in piedi. Evviva, a proposito di spese, a proposito di costi, a proposito di denaro, sentite questa invece in prima pagina di Libero e poi raccontata a pagina 9, la euromissione di alcuni eurodeputati capitanati da Cécile Kyenge, ex ministro in Italia, oggi eurodeputata, che è andata alle Figi. Una missione da 1.230.702 euro per 3 giorni, ma poi 3 giorni, già volare alle Figi ci si mette un giorno praticamente. Ovviamente tutti i voli in prima classe di 102 persone dell'Europarlamento, 42 deputati, 29 funzionari, 31 interpreti. Dovevano andare alle Figi per parlare di che un meeting sul clima. Tre francesi, un tedesco, uno spagnolo, due polacchi, non è l'inizio di una barzelletta, sono gli eurodeputati che hanno partecipato a questo viaggio, a questa missione diplomatica alle isole Figi. 1.200.000 euro per mandare 102 persone a parlare di clima e mare. Anche se poi Libero scrive tanti, tanti parlamentari in questi 3 giorni o 2 giorni e mezzo disertano il meeting. Non gli italiani c'è da dire, Libero correttamente racconta, hanno tutti partecipato al meeting, ma gli stranieri forse si sono imbucati per fare un paio di giorni alle Figi, affaccendati in altre faccende. E Ale, a proposito di spese, questa invece è una vicenda drammatica, ieri era uscita su tutti i notiziari, E la notizia che oggi però non ha molto risalto, se non per quel che riguarda la Repubblica, dedica una pagina a questo tema, è la condanna che è arrivata allo Stato italiano, la condanna a risarcire 371 cittadini italiani che sono stati infettati da virus molto gravi, alcuni mortali come l'AIDS, l'epatite B e la C, attraverso trasfusioni di sangue malato effettuate negli anni dalle 70 al 90. È una vicenda certo che affonda nel passato, ma che per molti porta e comporta conseguenze ancora sulla propria pelle. Ebbene, arrivata questa condanna, lo Stato italiano dovrà risarcire 371 cittadini, lo ha detto la Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo, visto che 889 persone hanno fatto ricorso alla Corte, 371 sono i ricorsi che sono stati accolti per l'appunto, e in alcuni casi ci sono riparazioni che lo Stato italiano dovrà riconoscere tra i 70.000 e i 350.000 euro, avendo determinato che lo Stato ha violato il diritto a un equo processo e al rispetto della proprietà privata. C'è il racconto di Angelo Magrini. Angelo Magrini è oggi il presidente dell'associazione Politrasfusi Italiani, viene intervistato da Corrado Zunino, lui che ha disegnato la grafica del mulino bianco nel 78, lui che nel 93 ha contribuito a mandare in carcere Duilio Poggiolini. A 65 anni dice: so che di sangue infetto morirò, è successo 25 anni fa, un incidente in macchina, mi portano per una trasfusione, ho rintracciato facendo tutta la ricerca il numero del lotto infetto, epatite C, basta un donatore sbagliato su 20.000 con cui si costruisce un emoderivato e credo che ad infettarmi sia stato uno straniero. Come fa a dirlo? L'associazione di cui sono presidente ha ricostruito come molti donatori, soprattutto negli Stati Uniti, venivano rintracciati tra persone che avevano necessità di guadagnare nei ghetti del sud dell'America, tra tossicodipendenti delle metropoli, nelle carceri. L'Italia faceva circolare tutto questo? Fino al 92 nessuno ha controllato per dolo, complicità pagata o negligenza. Ora ho smesso di lavorare, non potevo più, ma ho iniziato a allestire indagini, ascoltare altre persone sfortunate, costruire dossier fino alle cause. Insomma, questa è un'intervista che trovate a pagina 23 di Repubblica. Se girate pagina, sempre su Repubblica, c'è quella che viene proposta come la prima intervista, la prima volta che parla Martina Levato dal carcere. Chi è Martina Levato? È quella donna che è stata appena condannata a 16 anni in concorso per avere sfregiato con l'acido due ragazzi. La vicenda a Milano è ben nota, come sapete, è finita su tutte le cronache dei giornali. Paolo Berizzi dice: ecco qua Martina Levato, è la prima intervista dal carcere. In realtà, visto che dal carcere non si possono rilasciare interviste entrando, non è che un giornalista può entrare da un giorno all'altro, Martina Levato ha incontrato la deputata del PD Eleonora Cimbro. Eleonora Cimbro, che peraltro rivela alcune delle posizioni di Martina Levato anche sul quotidiano Il Giorno, in pratica si fa da mediatrice di questa intervista di Repubblica, pagina 24. Cosa dice in sostanza Martina Levato? Dice questo: mi sono pentita, datemi una seconda chance. Ora voglio crescere mio figlio Achille. Mi rendo conto di quanto dolore ho provocato alle vittime, alle famiglie, ai loro genitori, ma perché durante la gravidanza mi hanno assicurato che sarei andata con mio figlio in una struttura milanese per madri detenute e poi, dopo il parto, me lo hanno tolto? A volte mi portano il bambino che sta dormendo. Quando si sveglia non ho nemmeno il tempo di entrare in relazione con lui, che è già finito il tempo. Così ti vive come un'estranea. La stessa cosa, credo, vale per suo papà, cioè l'altro imputato, Butcher. Penso che anche lui abbia diritto a essere padre e a poterlo fare. Ma non voglio più, ecco qui c'è una presa di distanza dallo stesso Butcher, non voglio più che il mio nome sia associato alla coppia. Vorrei che si parlasse di me e di mio figlio, che si chiama Achille Levato. Quindi una presa di distanza, sembra netta, la fine di un amore con Butcher. Quanti rimorsi ha? Tanti, risponde Martina Levato. Sto male per quello che ho fatto, ci ho impiegato un anno per capire che ho sbagliato, ho inflitto tanta sofferenza, ora voglio riabilitarmi con mio figlio. In carcere, dopo la sveglia, apro la palestra, è l'incarico che mi hanno dato, poi vado in biblioteca a studiare. Vorrei laurearmi, ma alla Bocconi il codice etico lo vieta. A me, ad Alberto Stasi, invece, no. Dovrò dunque trovare un'altra sede. Mi mancano 4 esami e voglio laurearmi. Cosa avrei voluto fare nella vita? La donna in carriera. Studiavo per quello, poi quando ho conosciuto Alexander, appunto Butcher, ho pensato di diventare mamma e fare una famiglia. Comunque, dice anche, mi piacerebbe far vedere quello che sono come persona, anche se non mi sottraggo a nessuna delle mie colpe e alle mie responsabilità. Parla Martina Levato e a lei la archiviamo. Ma eccoci qua, al momento dell'articolo che mi fa... Sole della giornata. È Sergio Rizzo che racconta in prima pagina del Corriere della Sera l'ultima... Sto per dire porcata. L'ho detto, l'ultima porcata che esce dalla Camera dei Deputati. Stipendi tagliati ai dipendenti, alla Camera vale solo per 2 anni. Per la serie, scrive Sergio Rizzo, portarsi avanti sul lavoro durante le feste. Se Rai 1 ha anticipato il Capodanno di un minutino, il Babbo Natale dei dipendenti della Camera si è presentato addirittura 2 anni prima. Il regalo è questo, una sentenza del Collegio d'Appello, come si chiama l'organo interno a Montecitorio competente a giudicare i ricorsi in materia del lavoro, ha stabilito il 22 dicembre che il tetto dei 240.000 euro di retribuzioni pagate dallo Stato avrà per i dipendenti della Camera valore esclusivamente temporaneo, esattamente fino al 31 dicembre 2017, dopodiché... Se a quel punto non interverrà un provvedimento per riaffermare il limite, liberi tutti, gli stipendi dei dipendenti del Parlamento potranno tornare nelle parti più alte della stratosfera. La conferma, scrive Sergio Rizzo, che esista un'amministrazione di serie A, quella del Parlamento, e un'amministrazione pubblica di serie B, quella di tutti i poveri voi sfigati. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Con Alessandro Milan la notizia diventa una peperlizia. Ah, la peperlizia, evviva, caro ascoltatore. Allora, siamo qui a parlare, beh, di quello che succede a livello internazionale. Non sono buone notizie, quello che... quelle che provengono intanto da Jakarta in Indonesia, dove ieri nella mattina italiana c'è stato questo attentato e la polizia indonesiana fa sapere volevano fare un attentato in stile Parigi, in stile Bataclan, cioè persone che sono andate in giro per il centro di Jakarta, soprattutto colpendo, hanno colpito di fronte a uno Starbucks, volevano fare più vittime possibili. 7 morti, 20 feriti nel mirino Starbucks e anche un cinema. Ci sono tra l'altro dei membri del comando in fuga, qualcuno che forse ha aiutato. Come racconta Raimondo Bultrini a pagina 14 di Repubblica, ci sono ancora transenne e soldati a bloccare la strada dove passanti e curiosi si accalcano a tarda sera nel luogo dove ieri un numero ancora imprecisato di kamikaze si è fatto esplodere, spostando dopo Parigi e Istanbul il terrore a Oriente, nel paese islamico più popoloso del mondo, appunto l'Indonesia. In tutto si registrano 6 esplosioni, una battaglia tra terroristi e polizia che ha sconvolto la capitale Jakarta, nel cuore del lussuoso distretto commerciale di via Tamrin, che ospita negozi, ristoranti frequentati da stranieri e diversi uffici delle Nazioni Unite. Le vittime, poi 7, sono soprattutto membri del comando, ma anche un turista canadese e un passante indonesiano. E poi non solo dall'Indonesia, tra l'altro il Corriere della Sera pubblica questa foto molto inquietante, la foto del dramma in diretta, un terrorista con la pistola spianata, proprio preso in primo piano, e la gente che cerca di fuggire, la folla di Jakarta, mentre osserva le sue mosse in maniera inquietata, cerca una via di fuga. Ma spostandosi più vicini a noi è arrivata ieri, è piombata nelle redazioni e quindi ora finisce su tutti i giornali questa minaccia, un video che non è dell'ISIS ma di Al-Qaeda, un'organizzazione vicina ad Al-Qaeda, per quello che è il nostro ruolo in Libia. Le minacce sono raccontate da tutti i giornali, La Stampa, pagina 11, Libia, ora Al-Qaeda a minacciare l'Italia, invasori, vi pentirete. Soprattutto ci rimproverano che cosa? Il fatto che un generale, Paolo Serra, sia stato nominato consigliere militare dell'inviato speciale dell'ONU per la linea, Martin Kobler. E questo Martin Kobler, aiutato anche dal nostro generale italiano Paolo Serra, dovrà formare il 17, quindi annunciare tra due giorni la lista dei ministri del governo di unità. Il 19 a Roma ci sarà un summit tra i 18 paesi che sostengono il processo di pace. Ecco allora che alla vigilia di questo tentativo, anche se difficile, di pacificazione della Libia, ci sono le minacce puntuali che arrivano. C'è anche questa notizia, per la verità non confermata, anzi lo stesso ministro Gentiloni degli Esteri dice che potrebbe essere una notizia non vera, di 150 ostaggi presi vicino a un centro petrolifero libico. È vera? Non è vera? Comunque il campo petrolifero è quello di Sidra. È stato attaccato senza successo dall'ISIS il 4-5 gennaio, ma le colonne mobili dell'ISIS hanno annunciato: andando via, abbiamo preso con noi 150 ostaggi e li giustizieremo, li sgozzeremo. È vera o non è vera? Sta di fatto che l'ISIS è vicino a noi. Anche Repubblica titola proprio così: Al-Qaeda, l'Italia pagherà per la Libia. Vicino a noi o in mezzo a noi? Oggi il giornale titola in prima pagina ciò che riportava ieri, per la verità, al Secolo XIX: due terroristi armati in Italia e l'allarme degli 007 francesi, sono jihadisti in viaggio per la Siria attraverso il nostro paese. È il titolo di prima pagina con l'inquietante: l'ISIS è qui. Oh, invece se si va alla politica italiana è inutile, non si gira e rigira, due sono le notizie, quarto e le unioni civili, non ci si schioda, soprattutto le unioni civili hanno avuto un'escalation con l'iniziativa che fa molto discutere di un sito, gay.it, che ha pubblicato, che cosa? In un collage di foto, quelli che sono stati definiti i senatori malpancisti del PD. 36 fotine, poi ridotte a 26 perché alcuni hanno detto: io non c'entro niente, io sono a favore di questa legge sulle unioni civili. Sono i senatori più che dubbiosi sulla stepchild adoption e il sito dice: contattateli, scrivete loro una mail, chiedete un appuntamento. Ecco che subito è partita la replica: ma queste sono liste di proscrizione, è una vergogna. Il sito dice: ma sono senatori scelti coi voti degli elettori, per cui la nostra è un'operazione di verità. Insomma, ci si spacca sull'idea se è una lista di proscrizione oppure no. Il giornale non ha dubbi, c'è anche in prima pagina del giornale il commento del direttore Alessandro Sallusti, che dice: il sito web storico della comunità gay italiana pubblica la lista di proscrizione di parlamentari di sinistra scettici o contrari alla legge sulle unioni. E così, da perseguitati a persecutori, da vittime dell'indice a puntatori di indice, da discriminati a discriminatori, è un peccato che i gay non riescano a uscire dal ghetto nel quale erano stati chiusi per anni, non senza sofferenze. Dice il giornale: questo è una lista di proscrizione. Si difende il responsabile del sito e dice: ma quale lista di proscrizione? Tra l'altro il responsabile del sito, Alessio Di Giorgio, è un imprenditore genovese che è stato iscritto al PD renziano della prima ora, ora però uscito per andare con Mario Monti, e dice: la lista serve a fare un'operazione di verità, altro che squadrismo. Tra l'altro sulle unioni civili vi segnalo, tra le varie interviste, ce ne sono decine, e parla al Manifesto Monica Cirinnà, che è l'autrice della legge, al cui nome si associa il testo, no? Si dice il DDL Cirinnà. Intervistata da Daniela Preziosa, pagina 3, anche se dice vorrebbe staccare il telefono alla fine di una giornata che definisce tremenda, dice: guardate che il problema non è il rapporto, lo scontro tra cattolici e laici, lo scontro semmai è tra conservatori e progressisti, visto che i quattro cattolici della Commissione Giustizia al Senato hanno votato il mio testo. Il punto chiave è quello della stepchild adoption, e racconta la senatrice Cirinnà: spieghiamo una volta per tutte di che si tratta. È l'estensione della responsabilità genitoriale sul figlio del partner, non in modo automatico, ma sempre mediata dal Tribunale dei Minori. Dunque non c'è nessun regalo, nessuna svendita, nessun bambino buttato tra le braccia dei gay, anche questo si è detto. C'è solo l'interesse principale del bambino valutato da un magistrato che amplia la responsabilità genitoriale. Questo è il punto chiave. Su questa vicenda Renzi, nel consueto retroscena di Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, dice: non ci sarà alcuno stralcio della norma. A questo punto è una questione di serietà, si vada in aula. Si va in aula così, con la libertà di voto, e si vota. Non esistono altre opzioni. Questa è la linea di Matteo Renzi, che però rischia su questo di non avere i numeri, ma si vedrà tra poco. Pare che questa lite, pare che questa cosa delle unioni civili, tra l'altro, abbia fatto litigare anche la famiglia Berlusconi, nel senso che, racconta la stampa, Francesca Pascale, che è a favore delle unioni civili, non ha gradito assolutamente il dietrofront di Silvio Berlusconi, che invece ha detto voteremo no, e sarebbe avrebbe affrontato Berlusconi con queste parole: Silvio, ti fai mettere la museruola da quei bigotti del tuo partito, non hai il coraggio delle tue idee. Ma sembra che abbia usato un altro riferimento più anatomico, più che il coraggio. Non hai il coraggio delle tue idee, saresti un vero liberale? Ma fammi il piacere, ipocrita. Questo sarebbe successo a casa, con porte sbattute e sceneggiate tra Francesca Pascale e Silvio Berlusconi. Chi lo sa se è andata così. Che ore sono? Sono le Meazza in punto. Eccolo qui, Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, grazie. Mi hai fatto precedere da una serie di insulti. No, di no. Eccetera, eccetera. No, no, ma sono... Erano solo dei beep. I beep protestavano per quello che non hai letto esattamente dalle citazioni. Senti, ci sono tantissime cose che ti devo segnalare oggi, quindi sarò un po' telegrafico. Innanzitutto segnati mercoledì prossimo 20 gennaio. Segnalo sul calendario, perché quel giorno, con il Sole 24 Ore, daremo un libretto dedicato alle novità 2016 per le pensioni. Ah, molto bene. Tu sei ancora molto lontano da questo traguardo, però invece ci sono degli italiani che sono interessati. Lo segnalo già per oggi in calendario. Oh, poi ti voglio dire, oggi giornatona. Sì. Consiglio dei Ministri, depenalizzazione. Sai che c'è stato come no? Questa polemica sul reato di immigrazione clandestina, questo non entrerà nel pacchetto. Si vedrà che cosa entrerà riguardo, ad esempio, alla guida senza patente. Mm-hmm. Se vuoi tutti i particolari oggi su norme e tributi, Alessandro Galimberti te li svela uno ad uno, anche con l'ausilio di una tabella. Poi, giornatona, perché ieri ha approvato il codice degli appalti definitivamente. Oggi due pagine su Sole 24 Ore per dire che cambia, soprattutto farà molto, c'è un super lavoro in vista per l'ANAC, per Cantone, ma ti spiegano tutti i dettagli le due pagine che trovi oggi su Sole 24 Ore. Inoltre ti voglio anche segnalare che abbiamo delle anticipazioni su come funzioneranno gli indennizzi per le banche, sai, per i risparmiatori delle quattro banche che sono state avviate alla risoluzione e così via. Ebbene, nelle pagine di Finanza trovi Giovanni Negri che ti dice come si sta preparando la bozza di provvedimento che dovrà dare attuazione alla norma di indennizzo fissata nella legge di stabilità. E poi ancora ti voglio dire che aspettiamo sempre che venga attuato il bonus alberghi, perché era stato fatto un bonus nel 2014, sì. Ecco, doveva valere fino a fine 2016, però ancora dobbiamo finire di attuarlo. Adesso però non è che c'è più tanto tempo. Dai, adesso... Beh, insomma, sì, bisognerebbe anche poi farlo prendere a uno sconto fiscale, peccato anche che resti lì. Vabbè, poi ti voglio anche dire, va avanti il negoziato sulla Bad Bank, te ne parlavo già ieri, anche oggi ci torniamo sul Sole 24 Ore, sembra che si stia trovando una composizione della vertenza tra noi e la Commissione Europea. E poi... Oh, hai regalato profumi quest'estate, questo Natale? No. Vabbè, però guarda, le profumerie sono andate molto bene lo stesso. Oggi sulle pagine di Moda 24, tra le altre cose, ti diciamo del buon momento che stanno attraversando, che hanno attraversato a Natale, appunto, le vendite delle profumerie. Mm. Oh, e poi sta tornando il disegno di legge sulla concorrenza. Te l'eri dimenticato. Sì. L'avevi già archiviato. Invece no, invece si parla di trasparenza per gli investimenti bancari, se ne sta discutendo in Parlamento. E poi ancora Uber, un altro argomentino di quelli caldi. Mm. Provi tutto oggi sulle pagine Sole 24 Ore. Molte altre cose ti vorrei dire, ma soprattutto ti voglio dire, nonostante sia venerdì, parliamo di condominio. Ah. Perché la Corte Costituzionale ha detto si possono fare i condomini hotel. Ah. Non è necessario che ci sia una particolare autorizzazione da parte degli enti locali, te lo raccontiamo nelle pagine di norme e tributi. Ti ho detto parecchie cose, sì. Hai preso nota di tutto? Sì, con chi gioca l'Inter? Gioca, domani mi pare in quel di Bergamo. Ah, faccio un pronostico. Fai un pronostico, sì. 1-1. Come 1-1? Dovevi dire 1-0? Vabbè allora, rifaccio il pronostico. 1-0. Ok, così ne hai due, diciamo che abbiamo aumentato le possibilità di imbroccare. Sì. Va bene, io invece non faccio pronostici, ma ti faccio tanti auguri, per la vostra domenica calcistica, proprio dal profondo del cuore. E tutto ciò premesso, buona domenica per davvero a tutti quanti, e soprattutto traffico! Alessandro Milan, la Fiorentina dell'informazione. Spezzeremo le reni alla Fiorentina domenica sera. Speriamo. Allora, a proposito di quarto, ci sono notizie. Indagato ora il marito del sindaco Rosa Capuozzo. Direi che la notizia più importante, dobbiamo andare un po' in fretta perché il tempo corre, è l'intervista di Roberto Fico sul Corriere della Sera. Roberto Fico del direttorio dice... Questa notizia, intervistato da Emanuele Buzzi, di fatto a quarto il movimento non c'è più da quando abbiamo espulso il sindaco. E dunque si tratta solo di una formalità, ma ci saranno altri allontanamenti. Arrivano anche le altre espulsioni per i consiglieri. Questo fa trapelare, fa capire Fico. A proposito di politica, Repubblica lancia questa notizia su Silvio Berlusconi con Carmelo Lo Papa a pagina 10, cioè un Berlusconi che sarebbe pronto a mollare Forza Italia. Nel senso che questo almeno è il consiglio che gli ha dato il suo amico Confalonieri. Fedele Confalonieri gli ha detto: che ti serve Forza Italia al 10%? Non conviene neanche alle aziende questa guerra a Renzi. Un Berlusconi forse turbato più che tentato da questo, un Berlusconi che però, come racconta Repubblica, avrebbe appunto i nomi nuovi per Milano e Roma. Oggi Repubblica anticipa quello che vorrebbe candidare a Roma, e cioè Guido Bertolaso, ex capo della Protezione Civile, sarebbe stato convinto da Berlusconi a candidarsi a Roma. Trovate ovviamente molto della vicenda Renault Dieselgate. Marco Mussanè sul Sole 24 Ore spiega molto bene come è nato il crollo in borsa della casa automobilistica francese, perché un sindacato ha diffuso la notizia e ha rivelato la notizia che alcuni ispettori dell'antifrodi hanno visitato alcuni centri della Renault, e quindi è partito sui listini in borsa il panico. È scattata l'ondata generale di vendite, nonostante la direzione del gruppo abbia cercato di calmare le acque con un comunicato spiegando che i primi test effettuati dal laboratorio sotto supervisione di commissioni indipendenti costituite dal Ministero dell'Ambiente abbia accertato che le auto del costruttore francese non sono dotate di alcun software in grado di alterare i dati, come il caso Volkswagen, però il gruppo Renault ha perso moltissimo in borsa, e questo l'ha fatto piombare nella bufera Dieselgate. I dettagli sono tutti raccontati da Marco Bussanè a pagina 3 del Sole 24 Ore. E poi che dire, per quel che riguarda la cronaca c'è molto anche di notizie relative a questo l'omicidio di Ashley Olsen, che pare essere risolto nel momento in cui è stato fermato il senegalese Sheikh Diaw. è stato fermato e ha confessato, nel senso che ha confessato di essere andato a casa con questa donna americana, di essere ubriaco insieme a lei, di avere fatto uso di cocaina, di avere fatto sesso. Poi, chiaro, diverge la versione della procura, che dice l'ha ammazzata dopo una violenta lite, visto che ci sono anche due fratture al cranio, mentre lui dice: lei mi ha trattato come un cane, io l'ho solo spinta e lei è caduta, ma quando sono andato via era ancora viva. Questo è l'unico punto su cui divergono la ricostruzione della procura e il racconto di questo senegalese, però il caso è chiuso, nel senso che chiaramente è lui il responsabile di quello che è successo, l'ammissione del killer, la lite, poi l'ho spinta, non volevo ucciderla. Ma comunque trovate paginate di cronaca, chi è appassionato alla cronaca nera, a questo caso giudiziario su tutti i giornali, ma è il momento di celebrare, a mio insindacabile giudizio, come sempre, la carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali oggi è una pagina intera. Una pagina intera dedicata però a un qualcosa che già mi mette l'acquolina in bocca, per carità, il tramezzino sulla Stampa. 90 anni di golosità, sono 90 anni del tramezzino. E dunque la Stampa celebra, visto che è nato al Caffè Mulassano di Torino nel gennaio 1926, a battezzarlo fu Gabriele D'Annunzio, una pagina sul tramezzino. Ma chi se ne frega!